La questione salariale è abbastanza generalizzata dentro e fuori le grandi città, come dicevi tu, della rendita sotto pressione della turistificazione. È vero anche che in Italia già sappiamo appunto una condizioni di bassi, scarsissimi salari che non aumentano, anzi in rapporto a quella che è stata l'ondata di inflazione degli ultimi anni hanno avuto diciamo un calo in termini di potere d'acquisto reale, ma è pure vero che la questione salariale rispetto alla questione dei prezzi dell'abitare in qualche modo è un cane che si morde la coda, ovvero pur aumentando gli stipendi e i salari, ovviamente, se i prezzi degli affitti o anche dell'acquisto degli immobili continuano a aumentare a queste velocità, perché poi sono come dire, prezzi che tendono ad una dinamica speculativa, è quasi impossibile riuscire a eguagliare in termini di potere d'acquisto e quindi a sottrarre ancora una volta quella capacità, se vogliamo, di spesa delle persone. Questo si lega sempre al tema del salario reale, in quanto se la corsa è verso beni e servizi, in questo caso l'abitare, i cui prezzi sono completamente slegati dalla politica e non sono minimamente controllati, non ci può essere in qualche modo aumento salariale che tenga per riuscirli a eguagliare. La politica quando parla di lavoro spesso ne parla in termini quantitativi, ma insomma è importante anche parlarne in termini qualitativi. Nelle città, a Bologna ma non solo, in questi anni sono cresciuti molto i settori della ristorazione e del turismo. Che tipo di lavoro si svolge dentro il turismo? Ma dentro appunto il comparto della ristorazione e del turismo i lavori che troviamo sono sicuramente lavori a scarso valore aggiunto e scarsissima retribuzione, sono lavori molto precari dal punto di vista contrattuale ma anche delle condizioni di lavoro, con turni che si estendono, con condizioni proprio di sicurezza, se vogliamo, scarse. Non c'è nessuna possibilità in qualche modo di migliorare le proprie competenze, come dire fare un caffè è fare un caffè, lavare i panni degli Airbnb quello è, quindi non c'è nessuno sviluppo. Questo significa che di fronte a una possibile, probabile, ulteriore crisi come quelle che abbiamo vissuto negli ultimi 15 anni, sono lavoratori che non potranno ricollocarsi facilmente e quindi lì di nuovo ci sarà, come dire, il trionfo della retorica, sono i lavoratori a non avere le competenze quando in realtà sono stati costretti da questo modello di sviluppo a focalizzarsi per anni in questi tipi di lavoro. L'altra cosa che secondo me va un po' riportata come parallelo, negli ultimi, diciamo, ormai decenni ci siamo occupati di gig workers, quindi riders, a Bologna ovviamente ha avuto una grande tradizione anche per contrastare questo fenomeno, ma se lo ampliamo a tutto il comparto del turismo in realtà ci troviamo più o meno la stessa situazione, non più gestita da piattaforme, e questo ci ricorda che appunto le piattaforme non sono neutrali, c'è sempre qualcuno dietro, un padrone che comanda, a appunto forme di cottimizzazione. Basti pensare alle pulizie appunto negli appartamenti, al tipo di appunto quella pulizia che si estende in frammentazione produttiva, quindi i magazzini, le lavanderie e quant'altro, quindi tutta una filiera, non è soltanto la ristorazione quello che vediamo noi o appunto l'accoglienza in termini di Airbnb, ma è tutta la filiera, cioè quali sono tutti i servizi che compongono questo comparto, sono tutti servizi a scarso valore aggiunto, a scarsissime retribuzioni ma anche a scarse condizioni lavorative. Quindi ci troviamo un paradosso di lavoratori che prestano servizi in una città a cui non riescono ad accedere, a permettersi insomma. Cioè questo è evidente, evidente a Bologna come in tantissime altre città, non a caso le città non sono più pensate per la gente che ci vive, che ci lavora, ma proprio soltanto per i turisti, e questo ne va anche del tipo di servizi che poi una persona dovrebbe avere per vivere una propria quotidianità senza dover fare chilometri per, non so, per andare da un ferramenta banalmente. Sì, sono persone espulse sostanzialmente dalle città, espulse anche in una condizione di sottofinanziamento di quelli che sono tutti i sistemi poi e le reti di welfare, primo tra tutti per esempio la mobilità locale, che da un lato aumenta i costi, dall'altro diminuisce le corse proprio perché viene concentrata solo esclusivamente sui centri città e quindi pensata per, diciamo, un pubblico che ormai diventano clienti e non cittadini, che è sempre quello più ristretto, che è disposto a pagare, che ha bisogno di servizi completamente differenti invece da chi quella città la fa e produce anche, se vogliamo, i servizi del turismo e dell'accoglienza a cui ci stiamo riferendo.